I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Mentre il presidente Trump presenta un piano per il taglio delle tasse sulle imprese che supera ampiamente i buoni propositi di molti paesi, a partire dalla Gran Bretagna, pur intenzionati a ridurre la corporate tax, il nostro governo ancora si interroga su come finanziare un taglio credibile del cuneo fiscale con l'obiettivo di alleggerire il costo del lavoro per le imprese e rafforzare il potere di acquisto delle famiglie. Se ne è parlato molto nei giorni scorsi, ventilando questo intervento come scambio con un aumento delle aliquote dell'IVA, sul quale poi ha frenato lo stesso governo. Eppure l'IVA sembra tornare in gioco proprio nella prospettiva del taglio del cuneo fiscale, ma questa volta non come aumento delle aliquote, quanto piuttosto andando a recuperare l'imposta evasa. L'IVA, lo sappiamo, è una delle imposte più evase, il tax gap è di circa 40 miliardi di euro all'anno. E allora l'ipotesi a cui lavora il Ministero dell'Economia è di introdurre l'obbligo della fatturazione elettronica tra operatori privati. Sarebbe una modalità in grado di ridurre fortemente l'evasione IVA. Stime non ufficiali dicono che si potrebbero recuperare tra i 5 e i 10 miliardi di euro all'anno da destinare appunto al taglio del cuneo fiscale. È un percorso che va affinato in primo luogo perché per rendere obbligatoria la fattura elettronica tra privati serve l'autorizzazione dell'Europa, autorizzazione che tuttavia potrebbe arrivare proprio in nome del contrasto all'evasione fiscale e di un contestuale utilizzo delle risorse per ridurre tasse e contributi sul lavoro. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Per la saga di Alitalia ogni giorno c'è una puntata nuova. Questa volta è il possibile partner, dopo che i cinesi, gli arabi, i francesi, gli inglesi e anche i russi si è parlato di un possibile interesse di queste compagnie sulla Alitalia, adesso anche i tedeschi, si è diffusa la notizia che potrebbero essere interessati. Ma proprio così, passati pochi minuti, è stata la stessa Lufthansa a smentire qualunque ipotesi di interesse per l'Alitalia, come se la compagnia di bandiera fosse ormai quasi uno stigma da tenersi vicino che nessuno vuole. Persino gli arabi non hanno stretto e adesso si apre una grande incertezza legata all'esito del referendum. Un referendum che, bisogna dire, sembra quasi il colpo di grazia inferto dagli stessi dipendenti. C'era 1 miliardo di liquidità pronto per poter fare l'aumento di capitale e salvare così i posti di lavoro. Per non rinunciare all'8% dello stipendio, il personale di volo ha così deciso di bocciare direttamente l'ipotesi e di perdere probabilmente il posto. Una scelta molto soggettiva e una scelta che lascia il segno, soprattutto pensando che nel resto dell'industria del trasporto aereo il contratto dall'Italia resta un esempio di eccellenza e di generosità. Ma tant'è, ognuno è padrone del suo destino. Il punto è un altro: credere o non credere che l'Alitalia possa essere venduta. Quello che si può dire con certezza è che finché non si avrà un commissario e non sarà presa una via decisa verso la ristrutturazione della compagnia finanziaria e industriale, nessuno si avvicinerà ad Alitalia e quindi qualunque indiscrezione su possibili interessi di matrimonio o di partnership è del tutto campata in aria. Insomma, per ora a terra restano soltanto le realtà di quel referendum e in aria tante bugie. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.